Capitolo 27. Tristi memorie. Le statuette e le pitture della camera d'Evangelina furono celate sotto bianchi veli. Il silenzio non era lì turbato se non da alcune parole mormorate a voce sommessa, dal fruscio d'un piede leggero sui tappeti, e la luna vi penetrava attraverso le persiane abbassate. Il letto era coperto di bianco e lì, sotto sembianze angeliche, riposava la spoglia di una fanciulla addormentata, addormentata per non svegliarsi più. Ella giaceva colà, vestita della semplice veste bianca che soleva portare vivendo. La luce rosea filtrava dalle tende e spargeva una tinta calda su quel gelido volto. Le lunghe sue ciglia erano languidamente abbassate sulle candide guance. Il capo era un po' inclinato da una parte, come se dormisse di un sonno passeggero. Ma era diffusa in tutti i lineamenti di quel volto una sublime espressione celeste e vi si scorgeva un misto di quella pace che il Signore concede ai suoi prediletti. Non c'è morte per chi è pari a te, diletta Evangelina. Ella non ha né ombre né tenebre. Tu ti spengesti come la stella del mattino sparisce ai raggi dell'aurora. Tu conseguisti la vittoria senza combattere e la corona che ti cinge il capo è eterna come la divinità. Tali erano i pensieri di St. Clair, mentre con le braccia conserte al seno stava a contemplarla. Ah, chi potrebbe dire che cosa gli pensava in quelle ore? Dall'istante in cui una voce aveva detto «Ella è partita», una densa nube aveva offuscato la sua vista e immerso l'anima sua nelle tenebre. Varie voci gli ronzavano alle orecchie confusamente. Talvolta gli venivano rivolte domande a cui egli rispondeva come a caso, e quando gli fu chiesto a che ora voleva che si facessero i funerali e dove si dovesse scavare la fossa, egli aveva risposto con impazienza che di ciò non si curava. Adolfo e Rosa diedero sesto alla camera. Sconsiderati e frivoli come erano, manifestarono tuttavia un profondo sentimento, e mentre Miss Ofelia regolava le più minute particolarità di ordine e di nettezza, essi ebbero cura di dare alla stanza mortuaria l'impronta di una dolce poesia e di toglierne il carattere sinistro che si nota troppo spesso nelle cerimonie funebri della Nuova Inghilterra. I vasi che ornavano la stanza furono pieni di ogni sorta di fiori bianchi odorosi. La tavoletta di Evangelina, coperta di un pannolino bianco, sosteneva il suo vaso prediletto, contenente una sola rosa bianca appena sbocciata. Mentre St. Clair stava presso il letto con aria meditabonda, Rosa entrò lievemente nella camera con un panierino di fiori bianchi, ma, visto il padrone, diè alcuni passi addietro e rispettosamente si fermò. Poi, siccome egli di nulla si accorgeva, si fece innanzi per adornare il letto funebre. St. Clair la vide come in sogno porre un ramoscello di gelsomino fra le dita della fanciulla e aggiustare i fiori tutti intorno. L'uscio si aprì di nuovo e Topsy, con gli occhi gonfi dal piangere, si affacciò tenendo qualche cosa sotto al grembiule. «Va via!» disse Rosa con voce sommessa ma aspra e imperiosa. «Tu non hai che fare qui!» «Oh, permettete che io entri, reco un fiore proprio bello!» rispose Topsy mostrando una rosa tea appena sbocciata. «Permettete che la deponga sul letto!» «Esci!» soggiunse Rosa con voce anche più imperiosa. «Lasciate che rimanga!» esclamò St. Clair battendo il piede con forza. Rimanga! Rosa si allontanò subito e Topsy venne a porre la sua offerta ai piedi della benedetta spoglia. Poi, erompendo in un grido selvaggio, si gettò sul pavimento lungo il letto e si mise a singhiozzare affannosamente. Miss Ofelia corse nella camera tentando invano di imporre silenzio alla piccola nera. Oh, Miss Eva, Miss Eva, anch'io vorrei essere morta! Vi era nella sua voce qualcosa di selvaggio e di forsennato. Il sangue salì al viso, pallido e tetro, di St. Clair. E dai suoi occhi uscirono le prime lacrime che egli avesse versate dopo la morte di Evangelina. «Levati su, figliuola», disse con voce soave Miss Ofelia. «Non piangere così. Eva è andata in cielo. Ella ora è un angelo». «Ma io non la potrò più vedere!» esclamò Topsy. «Non la vedrò mai più!» I suoi singhiozzi raddoppiarono e tutti per un istante fecero silenzio. «Ella mi amava!» riprese Topsy. «Oh, cara, cara! E ora non mi rimane più nessuno, nessuno!» «Ah, è ben vero esclamò Sinclair. Ma guardate, Ofelia, se vi riesce di consolare questa povera creatura. Vorrei non essere mai nata, disse Topsy. Io non desiderai di nascere, non so che farmene della vita. Miss Ofelia, con dolci maniere, ma con fermezza, la fece alzare in piedi e la mise fuori della stanza, e mentre andava con lei alcune lacrime caddero dai suoi occhi. Topsy, povera figliuola, le disse, conducendola nella propria camera, non disperarti, posso amarti anch'io, sebbene io non somigli a quella cara angioletta. Spero di aver imparato un poco da lei ad amare il buon Dio. Posso amarti e già ti amo e ti aiuterò a divenire una ragazza da bene e cristiana. Nella voce di Miss Ofelia era più forza persuasiva che nelle sue parole, e le sincere lacrime che la versava erano anche più eloquenti. Da quell'ora ella acquistò sull'animo di quella povera creatura derelitta un potere che non perdette mai più. Oh, Eva mia! Eva mia, nella breve tua apparizione sulla terra, quanto bene facesti, pensò Sinclair, e io che conto avrò da rendere dei miei lunghi anni inutili? Di nuovo si udì nella camera un sussurrare sommesso, un rumore di passi leggeri. Tutti venivano, uno dopo l'altra, a guardare per l'ultima volta la bella estinta. Poi fu recato il piccolo feretro, e allora seguirono i funerali. Parecchie carrozze si fermarono alla porta di casa, alcuni estranei presero posto nella sala. Si videro nastri, sciarpe di niveo candore, veli ondeggianti, abiti di lutto. Furono lette parole della Bibbia, recitate preghiere, e Sinclair andava innanzi e indietro, come un uomo che ha esaurito tutte le sue lacrime. Egli non vedeva altro che quella bionda testa adagiata nel feretro. Ma quando il lenzuolo le fu disteso sopra, e il coperchio serrò la bara, il povero padre seguì gli altri in fondo al giardino, presso quel sedile di muschio dove spesse volte Tom aveva portato in braccio la fanciulletta, dondolandola con la sua cantilena dei noti inni. Colà era scavata la piccola fossa. Ivi Agostino si fermò, vide calar giù la piccola bara, udì confusamente pronunciare le solenni parole. Io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, quando anche sia morto, vivrà sempre. E dopo che la terra vi fu rovesciata sopra, egli non poteva persuadersi che la sua Eva gli fosse tolta per sempre alla vista. E difatti non era Evangelina, ma il caduco germe di quella forma lucente e immortale con la quale dovrà risorgere alla fine dei tempi. La mesta comitiva tornò addietro e rientrò nella casa dove mai più rivedrebbero Evangelina. La stanza di Maria era oscura. Maria giaceva sul letto singhiozzando e chiamando ogni momento i servi, ora per questa e ora per quella occorrenza. Costoro non avevano tempo di piangere, e perché avrebbero pianto? Il dolore era tutto suo proprio, ed ella era convinta che nessuno al mondo potesse né volesse prendervi parte. Ella diceva che Sinclair non aveva versato una lacrima, non le aveva dimostrato alcuna simpatia, e faceva maraviglia che gli fosse tanto indifferente e sì poco sensibile, mentre doveva sapere quanto ella soffrisse. Tom, però, aveva nel cuore un sentimento che lo attraeva verso il suo padrone. Lo seguiva dappertutto, lo osservava tristemente, e quando lo vedeva seduto, pallido e quieto, nella camera di Evangelina, con la piccola Bibbia di lei aperta dinanzi a sé, senza che il suo sguardo smarrito potesse discernere alcuna parola, Tom scorgeva più dolore in quello sguardo fisso e asciutto che nei clamori di Maria. Dopo alcuni giorni, la famiglia di Sinclair ritornò in città. Agostino, nella perpetua inquietudine del suo dolore, sentiva il bisogno di imprimere un altro corso ai suoi pensieri. Abbandonò dunque quella casa, quel giardino, quella piccola tomba per tornare a New Orleans. Sinclair misurava tutto il giorno a passo lesto le vie, cercando di riempire il vuoto orribile del proprio cuore a forza di alacrità, di agitazione, di movimento. Coloro che lo incontravano per la strada o lo vedevano al caffè non scorgevano altro del suo lutto che il velo al cappello, poiché era lì a cianciare, a sorridere, a leggere i giornali, a discutere di argomenti politici e di affari. Chi poteva vedere come sotto quella studiata allegria si nascondesse un cuore desolato e tetro al pari di un sepolcro? Sinclair è un uomo singolare, diceva Maria alla cugina, dando sfogo al suo malcontento. Io credevo che se egli amava qualcuno al mondo fosse la nostra cara figlioletta, ma vedo che si dimentica anche di lei facilmente. Non posso neppure ottenere che gli ne parli. In verità lo giudicavo di cuore più tenero. Le acque placide sono le più profonde, ho sempre sentito dire, rispose Miss Ophelia. Io non ci credo, è uno sciocco proverbio. Chi è dotato di sensibilità la dimostra, ma è infelice chi la possiede. Io preferirei di essere come Sinclair, invece la forza del sentimento mi uccide. Il cuore non conosce bene che le amarezze proprie, disse gravemente Miss Ophelia. È appunto ciò che penso. Io sola conosco quello che provo in me. Nessun altro mi compatisce. Eva sola mi sapeva intendere, ma ella non è più. E gettandosi indietro sul seggiolone, si mise a singhiozzare fortemente. Maria era una di quelle persone costituite in disgraziato modo, agli occhi delle quali ogni cosa perduta irreparabilmente acquista un valore che prima non aveva. Ella cercava difetti omende in tutto ciò che possedeva, ma appena ne restava priva, non finiva più di farne le lodi. Mentre nella sala si facevano tali discorsi, un altro colloquio avveniva nel gabinetto di Sinclair. Tom, figliuolo mio, il mondo è vuoto per me come un guscio d'uovo. Lo so, padrone, lo so, disse Tom. Ah, se il padrone potesse guardare in su, dov'è la nostra cara Miss Eva, nel soggiorno di Dio. Lo vorrei, Tom. E procuro di farlo, ma tutto è buio quando io alzo gli sguardi al cielo. E Tom mandò un profondo sospiro. Pare che sia stato concesso solamente ai fanciulli e alle anime buone e semplici come la tua di vedere queste cose che noi non possiamo vedere, disse Sinclair. Come mai? Tu celasti queste cose ai savi e agli intelligenti e le rivelasti ai fanciulletti, mormorò Tom. Tom, io non credo, non posso credere. Contrassi l'abitudine di dubitare da ogni cosa. Vorrei credere a ciò che la Bibbia insegna, ma non posso. Mio caro padrone, pregate il Dio con queste parole. Signore, aiutatemi, fate cessare la mia incredulità. Chi può comprendere qualche cosa? Disse Sinclair con aria meditativa e come parlando fra se stesso. L'amore, la fede, tutte queste belle cose non sarebbero che una fase passeggera del sentimento umano, fuggevoli come un alito e prive di ogni fondamento. Eva non è più, non vi è cielo, non vi è Cristo, nulla. Oh, mio caro padrone, tutto ciò esiste, io ne ho certezza, esclamò cadendo in ginocchio Tom. Credetelo, caro padrone, credetelo. Come puoi sapere che c'è un Cristo, Tom? Lo vedesti forse il Signore? Ma io lo sento nel mio cuore, lo sento ora più che mai. Oh padrone, quando io fui venduto, separato dalla mia vecchia e dai miei bimbi, ero nella desolazione, mi parve che mi togliessero tutto. E allora il Signore mi sostenne e mi disse: Non temere, Tom. E fece ritornare la luce nell'anima dello sventurato, vi infuse la sua pace e quindi mi rassegnai. Amo tutti, adoro la volontà del Signore e mi trovo contento dovunque Egli mi pone. So che questa forza non deriva da me, che sono una povera, misera creatura, ma mi viene da Dio e Egli farà altrettanto per il padrone. Tom parlava con voce interrotta. Sinclair appoggiò il capo alla sua spalla e strinse con affetto quella mano nera, così ruvida e così fedele. Tom, mi vuoi bene? Disse egli. Darei la mia vita in questo stesso giorno per veder cristiano il mio padrone. Oh, benedetta semplicità, soggiunse Agostino, alzandosi da sedere. Io non sono degno dell'amore di un cuore ben fatto e onesto come il tuo. Oh, padrone, c'è ben altri che me ad amarvi. Il Dio benedetto vi ama. Ma come lo sai, Tom? Chiese Sinclair. Lo sento in fondo all'anima. Oh, padrone, l'amore di Cristo supera ogni intelletto umano. Che cosa singolare, esclamò Agostino voltandosi da un lato, che la storia di un uomo morto da 18 secoli possa commuovere la gente a tal segno. Ma non era un uomo, soggiunse tosto, mai un uomo ebbe tale potere grande e durevole. Oh, perché non posso credere ciò che mia madre mi insegnava? Perché? Perché non posso pregare come quando ero fanciullo? Ciò dipende dal padrone, disse Tom. Miss Eva era solita leggermi così bene questo libro. Bramerei che il padrone avesse la bontà di leggermelo. Nessuno mi ha letto più nulla da che ella partì. Era il capitolo undicesimo del Vangelo di San Giovanni in cui è narrata la risurrezione di Lazzaro. Sinclair lo lesse ad alta voce, fermandosi tratto tratto per la commozione che lo vinceva. Il placido viso di Tom, genuflesso accanto a lui con le mani congiunte, aveva un'espressione di amore, di rapimento, di adorazione, di pace solenne nel sembiante. Tom, gli chiese il suo padrone. Tutto ciò è proprio vero per te? Ho tanta è la mia fede che mi pare di vederlo, rispose Tom. Oh, io vorrei avere i tuoi occhi. Che Dio ve li conceda. Ma Tom, tu sai che io ho più istruzione di te. Che penseresti se ti dicessi che non credo alla Bibbia? Oh no, padrone, disse Tom con atto supplichevole. Ciò non farebbe vacillare alquanto la tua fede. In nessun modo. Eppure devi convenire che ne so più di te. Non avete letto or ora che egli nasconde molte cose ai savi e ai prudenti e le rivela ai fanciulli, ma senza dubbio il padrone scherza, disse Tom ansiosamente. No, Tom, non scherzo, io non sono incredulo del tutto e penso che vi siano delle buone ragioni per credere, eppure non credo ancora. È un'increscevole e cattiva abitudine che ho presa. Ah, se il padrone volesse almeno pregare. E come sai che io non prego? Prega dunque il padrone? Ah, vorrei pregare se fossi ascoltato, ma tutto è sordo intorno a me. Vieni, Tom, prega tu e insegnami come devo pregare. Il cuore di Tom era pieno, la sua commozione traboccò in preghiera, quale sorgente d'acqua viva lungamente contenuta. Si vedeva chiaro come Tom fosse certo che vi fosse qualcuno che lo ascoltava. Sinclair si sentì elevato fino alle porte del cielo da quel torrente di fede e di amore. Gli pareva di accostarsi a Evangelina. Grazie, figliuolo mio, disse egli quando Tom si alzò in piedi. Io provo un gran piacere nell'ascoltarti, ma ora ho bisogno di essere solo. Parleremo di ciò un'altra volta. E Tom uscì dalla stanza in silenzio. 28. Riunione. Le settimane si susseguirono e le onde della vita ripresero il loro solito corso là dove la navicella era affondata. I bisogni quotidiani sono senza pietà per i nostri dolori e si ritornano imperiosamente ogni giorno e seguitano il loro andazzo con indifferenza. Conviene mangiare, bere, dormire, svegliarsi, comprare, vendere, interrogare e rispondere, proseguire insomma le tante cose, quantunque non ce ne importi più nulla. La fredda, macchinale abitudine di vivere rimane superstite agli affetti più vitali che dileguarono. Tutti gli interessi e tutte le speranze della vita di St. Clair si erano insensibilmente concentrati in quella sua figlioletta. Per Evangelina egli aveva ogni cura dei suoi beni, per Evangelina aveva tracciato la distribuzione delle sue ore, compre, prove, abbellimenti, tutto era calcolato per riguardo a lei e il desiderio di appagarne i gusti era tanto confitto nel suo pensiero abituale che ora gli pareva di non dover più né pensare né fare cosa alcuna. Per certo c'è un'altra vita, una vita la quale dal momento che vi si crede dà un valore nuovo, solenne e misterioso a ogni istante della vita terrena. St. Clair lo sapeva bene e spesso nelle sue ore di solitudine sentiva una voce tenera e infantile chiamarlo nei cieli e vedeva una piccola mano indicargli la via. Ma la tristezza, pari a un letargo profondo, si aggravava su lui e gli inceppava il piede. Egli era una di quelle nature che per virtù del proprio istinto comprendono le cose della religione più chiaramente e meglio di molti cristiani dediti alle strette pratiche della Chiesa. Il dono di apprezzare in tutta la loro suavità e nei più intimi loro rapporti le verità morali pare dato talvolta a coloro che nel corso di tutta la loro vita se ne dimostrarono trascurati. Quindi Moore, Byron e Goethe non di rado descrissero il vero sentimento religioso con maggior fedeltà di quanto possano fare coloro la cui vita intera è da esso governata. In tali uomini lo sprezzo della religione è il più orribile tradimento, è un peccato mortale. Sinclair non aveva mai voluto conformarsi ad alcun dovere religioso. Una certa squisitezza di sentire gli ispirava così alta idea del cristianesimo e dei doveri che impone, che egli arretrava, impaurito dalla coscienza, dal di doverli compiere. Tale è l'instabilità della natura umana, specialmente nella sfera dell'ideale, che preferisce di non intraprendere una cosa anziché abbandonarla imperfetta. Tuttavia, per più rispetti, Sinclair era molto mutato. Egli leggeva con sincera attenzione la piccola Bibbia di Evangelina, badava nei rapporti coi servi e alla loro educazione, dolente della sua negligenza per il passato. Appena fu tornato a New Orleans, fece i primi passi per la legale emancipazione di Tom, che doveva essere posta ad effetto non appena egli avesse potuto adempiere le prescritte formalità. Egli amava ogni giorno di più quel fido servo. Non c'era al mondo che gli rammentasse così vivamente la sua Evangelina. Lo voleva sempre vicino a sé, chiuso con tutti per quanto riguardava i suoi più intimi sentimenti, si apriva liberamente con Tom. Né alcuno avrebbe potuto maravigliarsene se avesse visto con quanto affetto, con quanta devozione il povero schiavo stava sempre intorno al suo padrone. Orbene, Tom, disse Sinclair il giorno dopo quello in cui aveva compiuto le prime formalità per il suo affrancamento, io farò in breve di te un uomo libero, perciò tu puoi fare il fardello e prepararti a partire alla volta del Kentucky. Il lampo di gioia che brillò in viso a Tom quando egli sollevò le mani al cielo e la sua enfatica esclamazione «Oh, il Signore sia benedetto!» sconcertarono un po' Agostino. Gli doleva che Tom fosse tanto disposto ad abbandonarlo. «Nel vedere il tuo giubilo si direbbe che tu sia molto maltrattato qui. Oh no, no, padrone, non è per questo. Io godo al pensiero di divenire un uomo libero. E non ti pare di essere stato meglio con me finora che se tu fossi stato libero? No, padrone, esclamò Tom con uno slancio di energia. No, certamente. Ma tu non avresti potuto guadagnare col tuo lavoro né gli abiti, né il nutrimento, né le agiatezze che trovasti in casa mia. So tutto questo, padrone Sinclair. Troppo buono è stato il padrone per me. Io preferisco nondimeno di avere abiti meschini, un meschino tugurio e meschina ogni cosa. Ed esserne veramente possessore, anziché star bene in casa d'altri. Penso che ciò sia naturale. Ne convengo, Tom. Ebbene, fra un mese o poco più te ne andrai, mi abbandonerai, riprese Sinclair con malcelata afflizione. Del rimanente, soggiunse con aria meno triste, nessuno te ne potrebbe fare un rimprovero. Così, dicendo, si alzò in piedi e cominciò a passeggiare per la stanza. Non partirò dal padrone fino a che egli sarà negli affanni, espose Tom. Resterò presso di lui finché egli avrà bisogno di me o che io potrò essergli di qualunque vantaggio. Finché io sarò negli affanni, Tom, disse Sinclair mestamente guardando dalla finestra. Ma è possibile che i miei affanni cessino? Sì, quando il padrone sarà cristiano. E tu vuoi rimanere con me fino a quel giorno? Disse Sinclair voltandosi e sorridendo. Ah, Tom, soggiunse ponendogli una mano sulla spalla. Buona e semplice creatura, io non voglio trattenerti fino a quel giorno. Va a riabbracciare tua moglie e i tuoi figli e reca loro i miei saluti amorevoli. Io ho fede che quel giorno verrà, rispose Tom vivamente e con le lacrime agli occhi. Il Signore riserba un'opera per il padrone. Un'opera? Ebbene, Tom, spiegami di qual sorta d'opera si tratta, io ti ascolto. Beh, dal momento che un povero ignorante quale io sono può lavorare al servizio del Signore, il padrone Sinclair che ha dottrina, ricchezza e amici, quanto potrebbe fare per lui? Oh, a quanto pare tu credi che il Signore abbia bisogno che si faccia molto per lui? Disse sorridendo Sinclair. Beh, noi ci adoperiamo per il Signore quando facciamo del bene alle sue creature. Ecco una buona teologia, Tom. Essa è migliore di quella di certi nostri dottori. E qui il colloquio fu interrotto dall'annunzio di alcune visite. Maria Sinclair fu addolorata dalla perdita di Evangelina quanto poteva esserlo, e siccome aveva il privilegio di rendere infelici tutti coloro che la circondavano mentre soffriva, i servi che le stavano più vicini avevano doppia ragione di piangere la morte della fanciulla, la quale, con le sue gentili intercessioni, li aveva più volte schermiti dalle crudeli, egoistiche esigenze di sua madre. Mami, in specie, la povera vecchia che strappata dalla sua famiglia aveva trovato modo di consolarsene in quella dolce creatura. Si sentiva spezzare il cuore e la si lagnava notte e giorno, per eccesso di dolore era meno attenta e ciò attirava sul suo capo ogni sorta di invettive. Miss Ofelia sentiva anch'ella quella perdita, ma nella rettitudine del suo cuore il cordoglio produceva frutti di vita eterna. La sua indole si era addolcita e, sebbene ugualmente assidua nell'adempimento di ogni suo dovere, sapeva disimpegnarsene con aria serena, tranquilla, come persona che scenda non invano nel proprio cuore. Topsy non divenne una santa tutt'a un tratto, ma la morte di Evangelina produsse in lei un cambiamento notevole. Aveva deposto la sua ostinata indifferenza, dimostrava desiderio del bene, brama di migliorare, e benché questi suoi tentativi fossero talvolta incompresi, interrotti, le rimanevano pur sempre nel cuore. Un giorno che Miss Ofelia aveva fatto chiamare Topsy, questa nell'accorrere si celò in gran fretta qualche cosa in seno. «Che stai facendo là? Tu hai rubato un oggetto!» disse l'arrogante Rosa, che era venuta a chiamarla e nello stesso tempo l'afferrò per un braccio. «Lasciatemi stare, Miss Rosa!» gridò Topsy sfuggendole di mano. «Questo non è affar vostro!» «Meno scherzi!» disse Rosa. «Io ti ho veduta nascondere qualche cosa, conosco i tuoi tiri!» E così dicendo, Rosa tentò nuovamente di impadronirsi dell'oggetto che Topsy aveva ficcato in seno. Ne nacque una lotta e la piccola nera, dibattendosi con furore, dava calci e difendeva valorosamente ciò che chiamava il suo diritto. Le loro grida e lo strepito della battaglia fecero accorrere sul luogo St. Clair e Ofelia. «Essa ha rubato!» esclamò Rosa. «Non è vero!» urlò Topsy, singhiozzando fortemente. «Dammi quello che hai preso, qualunque cosa sia!» disse Ofelia con voce ferma. Topsy titubava, ma, ripetuta l'intimazione, ella si cavò di seno un pacchetto avvolto nella soletta di una vecchia calza. Miss Ofelia lo svolse e trovò un libricino che Evangelina aveva dato a Topsy contenente un passo della sacra scrittura per ciascun giorno dell'anno. Poi, in un pezzo di carta, la ciocca di capelli ricevuta nel giorno in cui Evangelina diede l'ultimo addio agli schiavi radunati. St. Clair fu vivamente commosso alla vista di quel libretto avvolto in una lunga striscia di velo nero staccato dall'addobbo dei funerali. «Perché?» disse St. Clair tenendo quella striscia. «Hai ravvolto qui dentro cotesto libro.» Perché era di Miss Eva? Oh, per carità, non me lo togliete!» E detto ciò, Topsy sedette sul pavimento, si avvolse il capo col grembiule e si diede a singhiozzare di nuovo. Era uno strano miscuglio di ibernesco e di patetico, quella vecchia soletta, quel pezzo di velo, quel libretto, quella ciocca di capelli biondi e la disperazione di Topsy. Le labbra di St. Clair si mossero a un sorriso, ma egli aveva le lacrime agli occhi quando disse alla fanciulla: «Via, non piangere, non ti si toglierà nulla.» E raccolte tutte quelle cose, le pose sulle ginocchia a Topsy e trascinò seco Miss Ofelia nel salotto. «Credo davvero che potrete condurre bene quella creatura», disse alla cugina ponendole le mani sulle spalle. «Il cuore che è capace di un vero dolore è capace di bene, provatevi e riuscirete.» «Oh, la ragazza è già molto migliorata», rispose Miss Ofelia, «e io ne spero bene, ma Agostino», ella soggiunse ponendo la mano sul braccio di St. Clair, «permettetemi di farvi una domanda. A chi appartiene lei? A voi o a me?» «Io ve l'ho data», disse Agostino. «Ma non legalmente. Io desidero che Topsy sia mia legalmente.» «E che dirà mai la società abolizionista?» esclamò St. Clair. «Sarà costretta a istituire un giorno di digiuno per piangere la vostra diserzione se voi diventate posseditrice di schiavi.» «Oh, poco monta. Io desidero che ella mi appartenga in piena regola per poterla condurre negli stati liberi e emanciparla legalmente, se no non potrei compiere quello che mi sono proposta.» «Oh, cugina, che orrenda cosa fare il male perché ne consegue il bene. Io non posso incoraggiare il divisamento vostro.» «Lasciamo da parte le celie. È inutile sparger semi di pietà nel cuore di questa fanciulla se io non la salvo da tutti i rischi e da tutte le miserie della schiavitù. Qualora vogliate veramente farmene dono, rilasciatemi un atto, una scrittura legale.» «Bene, bene», disse St. Clair, «lo farò.» E spiegato il suo giornale, sedette per leggere notizie. «Ma io desidero che lo facciate ora», soggiunse Miss Ofelia. «Che fretta avete?» «L'ora presente è la sola in cui si abbia la certezza di fare le cose», disse Miss Ofelia. «Venite qui, eccovi carta, penna e inchiostro, scrivete.» St. Clair, come tanti altri della sua indole, detestava cordialmente quel far subito le cose e perciò gli fu assai molesta. Che vuol dire questo? La mia parola non vi basta forse? Si direbbe che abbiate imparato da un usuraio a tormentare un pover'uomo. Voglio assicurare i miei diritti. Voi potete morire o perdere ogni bene di fortuna e allora Topsy sarebbe venduta all'incanto e a nulla gioverebbero tutti i miei sforzi. In verità, voi siete tutta previdenza. Ebbene, poiché sono caduto nelle mani di un'americana del nord, bisogna pure che io ceda. E Sinclair, versatissimo nelle forme legali, scrisse rapidamente un atto di donazione che munì della sua firma in lettere maiuscole, circondata di un bel ghirigoro. Tenete, eccovi un po' di nero sopra il bianco, Miss Vermont, disse egli consegnandole la carta. Siete un bravo uomo, esclamò Ophelia sorridendo. Ma non occorre la firma di un testimonio? Ah, diamine, sì! E aperto l'uscio della stanza di sua moglie, disse: Qua, Maria, la cugina vorrebbe avere uno dei vostri autografi. Ponete il vostro nome a piedi questo foglio. Di che si tratta? Disse Maria scorrendolo con gli occhi. Che bizzarra idea! Veramente io credevo nostra cugina troppo pia per fare queste cose, soggiunse sottoscrivendosi con noncuranza. Ma già che ella si è incapricciata di un sì bell'articolo, lo prenda pure. Ecco, ora ella è vostra in corpo e anima, disse Sinclair porgendole la carta. No, non è più mia di quanto lo fosse prima, riprese Miss Ophelia. Dio solo avrebbe il diritto di darmela, ma da ora innanzi potrò almeno assicurarle la mia protezione. In tal caso ella è vostra per una finzione della legge, disse Sinclair, e rientrò nella sala per continuare a leggere. Miss Ophelia, alla quale non piaceva molto di trovarsi con Maria, lo seguì, riposta che ebbe in luogo sicuro la preziosa carta. Agostino, riprese ella francamente, senza sospendere il suo lavoro a maglia, avete ancora provveduto per l'avvenire dei vostri servi in caso della vostra morte? No, riprese Agostino, continuando la sua lettura. Pensate che la vostra indulgenza potrebbe riuscir loro funesta? Sinclair aveva fatto spesso la medesima considerazione, ma rispose trascuratamente: Bene, aggiusterò anche questa faccenda. Quando? Chiese Miss Ophelia. Uno di questi giorni. E se moriste prima? Oh, che idea vi passa per il capo, cugina, disse Sinclair, che posò il giornale per guardarla in volto. Avete forse osservato in me qualche sintomo di febbre gialla o di colera? Che mettete tanto zelo ad assestare le cose che devono seguire dopo la mia morte? La morte può sorprenderci a tutte le ore, rispose Miss Ophelia. Sinclair si alzò e uscì senza ragione apparente, ma desideroso in sostanza di troncare un colloquio che non gli andava a genio. Egli ripeteva macchinalmente la parola morte che gli aveva colpito l'orecchio e, appoggiato al parapetto della veranda, guardava l'acqua della fontana zampillare e ricadere, i fiori, gli alberi del cortile che gli apparivano come attraverso un ondeggiante vapore, e questa parola, così comune in bocca a tutti, ma sempre così terribile, morire, si offriva di continuo alla sua mente. Cosa strana, egli disse tra sé, che esista una tal parola e una tal cosa, e che noi possiamo dimenticarla, che un giorno siamo pieni di vita e di bellezza, pieni di speranza, di desideri, di bisogni, e che il giorno seguente possiamo sparire per sempre.